TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Pordenone, cominciati i trasferimenti nel nuovo ospedale, si parte dalle medicine interne e questa la vera inaugurazione, sostiene il Comitato Salute Pubblica, ma rimangono criticità. Legge regionale di stabilità, nuovi emendamenti dalla Giunta, 19 milioni in più, oltre 5 finanzieranno manifestazioni sportive. Violenza di genere a Udine, una mattinata di sensibilizzazione della CISL, sul palco gli studenti con una rappresentazione teatrale e una drammatica testimonianza. Gli studenti goriziani di videografica promuovono l'emporio della solidarietà della Caritas. Questa mattina la presentazione. Trieste, Mozart e Rossini, cominciata la stagione del Teatro Verdi con le due opere legate al personaggio di Figaro. Calcio alle 15, Udinese in campo a Parma, l'ennesimo esame per la discontinua squadra di Rugnaic. In Serie C la Triestina festeggia il ritorno alla vittoria. Nel biathlon torna in Coppa del Mondo Lisa Vittozzi dopo un'assenza di 21 mesi. 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. In apertura la prima giornata di trasferimenti dei reparti dal vecchio al nuovo ospedale di Pordenone. Si comincia dalle medicine. L'11 dicembre a trasferire l'attività sarà il pronto soccorso insieme ai reparti di radiologia d'urgenza e medicina d'urgenza. Questa mattina anche una manifestazione del Comitato Salute Pubblica. Ascoltiamo. Già questo pomeriggio i parenti dei pazienti ricoverati nella medicina interna 1 potranno entrare dalla nuova entrata dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, aperto ufficialmente questa mattina con il trasferimento dei primi 45 pazienti sui 108 letti attivati per le degenze infermieristiche, che diverranno 120 entro metà dicembre. Domani ci sarà una nuova parte di trasferimento. Noi siamo con Michele Chittaro, direttore sanitario. Di fatto l'inaugurazione è stata fatta il 16 dicembre di un anno fa, adesso però l'apertura vera, perché tutto questo tempo? Purtroppo nelle fasi di attivazione ci sono trovati dei problemi di tipo tecnico che hanno portato a fare ulteriori lavori, quindi ci hanno portato quei collaudi ad arrivare ad oggi. Questa mattina si è svolto una sorta di presidio che però era, hanno definito il Comitato per la Salute Pubblica, una controinaugurazione, cioè era comunque un momento di festa perché finalmente si apre un ospedale tanto voluto in città. Però c'è la preoccupazione che manchi il personale. Allora, c'è da dire che il nuovo ospedale non avrà più posti letto rispetto al precedente, però avrà dei posti letto sicuramente più accoglienti, dove sia gli operatori che i futuri degenti sicuramente potranno operare gli operatori al meglio ed essere poi curati al meglio anche i degenti. Sicuramente la nuova organizzazione, specialmente in ambito chirurgico, che prevede delle aree omogenee di assistenza di circa 40 letti l'una, ci aiuterà ad utilizzare al meglio il personale, attualmente invece sparso su più settori che di fatto non ottimizzano le risorse. Pordenone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nell'ultima seduta la Giunta regionale ha approvato nuovi emendamenti alla manovra di bilancio per un totale di 19 milioni. Di questi 5 milioni e 300 mila euro sono stati stanziati per la programmazione di varie manifestazioni sportive come il Giro d'Italia Donne o il Campionato Italiano di Mountain Bike e 1 milione per EIOF 2027, il Festival Olimpico della Gioventù Europea. Sul fronte cultura invece 2 milioni andranno alle iniziative per i 50 anni del terremoto e 1,5 milioni viene destinato ai comuni per rigenerare piccoli immobili a fini culturali, oltre ai 900 mila euro per il complesso di Villa Manin. Sul versante dell'ambiente 3 milioni serviranno per il rinnovamento delle centraline idroelettriche e 150 mila euro arriveranno ai comuni che partecipano al progetto sperimentale Sibin contro le microplastiche in mare. 1,5 milioni infine accompagnerà lo sviluppo della piattaforma del centro smistamento di Cervignano di Rete Ferroviaria Italiana e 1 milione sosterrà l'abbattimento delle barriere architettoniche dei comuni. La legge di stabilità sarà discussa in consiglio regionale a partire dal 9 dicembre. Si allarga la platea di chi beneficia del sussidio economico per i pensionati in condizioni di fragilità. È stato approvato un aggiornamento alla convenzione tra Regione e INPS, per cui anche chi riceve un assegno mensile di assistenza o un assegno sociale per invalidità civile avrà ogni anno un contributo di 350 euro. Per i nuovi beneficiari l'annualità 2025 sarà erogata entro il 28 febbraio dell'anno prossimo, mentre per quelle successive si seguiranno le tempistiche ordinarie definite nella convenzione. Le donne della CISL Friuli Venezia Giulia hanno organizzato a Udine una mattinata di incontri sul tema della violenza di genere. Protagonisti gli studenti del liceo artistico Sello e del Marinoni. Sul palco hanno messo in scena il mito di Persefone, testimonial speciale, una donna sopravvissuta al tentato femminicidio da parte del marito. Anticorpi contro la violenza e le relazioni tossiche, una mattinata all'Auditorium Zanon di Udine organizzata dalla CISL per fare educazione e formazione contro la violenza di genere. Una trentina di studenti del liceo artistico Sello e del Marinoni si sono impegnati in una pièce teatrale realizzata da loro sul mito di Persefone. Una dozzina poi di studenti del Sello hanno anche realizzato dei fumetti proprio per illustrare questo mito. E siamo qui con Demetra e Persefone. Partiamo da Demetra. Ti è piaciuta questa esperienza? Cosa hai imparato? Allora, ritengo che sia stata una bellissima esperienza, sono comunque cresciuta come persona anche tramite questo laboratorio, però avrei piacere si parlasse più di quello che c'è a monte prima del femminicidio e dell'atto cruento. Persefone? Bisognerebbe concentrarsi di più anche sulla strumentalizzazione di questi atti, che vengono anche impostati giornalisticamente per creare scalpore e divario tra i sessi. Ma sentiamo la testimonianza di Laura Roveri, una vittima di violenza coltellata 17 volte dal suo ex compagno e dopo sopravvissuta. L'educazione all'affettività è soprattutto un'educazione neurolinguistica, cioè iniziare a nominare, a dare un nome, a dare delle parole, a dare un paesaggio, prima linguistico e poi immaginativo, al sentire dell'essere umano. Udine, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. A Gorizia, gli studenti di una classe del Galilei Cossar, allievi di videografica, hanno realizzato due video promozionali per l'Emporio della Solidarietà della Caritas Diocesana. Ne abbiamo parlato con il dirigente dell'istituto. Un progetto dal duplice significato, mettere in pratica le competenze tecniche e professionali degli studenti e anche sviluppare il senso di solidarietà e volontariato. Tutto questo è stato sviluppato nei video prodotti dagli studenti della classe 4B grafica e comunicazione del Galilei Cossar di Gorizia su proposta della Caritas diocesana all'interno dei percorsi di cittadinanza attiva che da tempo mette in atto l'istituto. Alessandro Puzzi, dirigente scolastico del Galilei Cossar, come rispondono i ragazzi all'appello alla solidarietà? I ragazzi, quando sono coinvolti in modo attivo e partecipato, rispondono molto bene. Da dire che questo progetto è un progetto pluriennale che noi abbiamo attivato già con la Caritas da parecchi di anni, riguarda principalmente i ragazzi della prima e della seconda dell'ambito dell'insegnamento e dell'educazione civica. E quando si tratta di uscire dalla scuola e mettere in pratica quello che hanno sentito, quello che hanno imparato e venire incontro a realtà che loro magari non conoscono e diciamo partecipare in maniera attiva, i ragazzi rispondono molto molto bene e si sentono coinvolti. Quindi hanno fatto dei video, ma per esempio collaborano all'Emporio della Solidarietà? Certamente, il video è realizzato dai ragazzi di quarta, partecipano comunque quelli più piccoli, come si diceva, all'Emporio della Solidarietà, e contribuiscono alla colletta alimentare, quindi noi li facciamo uscire da scuola, recarci presso l'Emporio Caritas, dove contribuiscono attivamente all'attività dei volontari. Gorizia, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Scritte rosse e offese sono comparse all'esterno della sede regionale della Lega a Udine, lo segnalano i deputati Graziano Pizzimenti e Massimiliano Panizzut, che aggiungono: non ci faremo intimidire da gesti simili che devono essere condannati con fermezza. Non dimenticare un solo nome in occasione della giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. A Trieste verrà esposto un sudario lungo 25 metri, largo 7 e mezzo, sul quale sono stati trascritti 18.457 nomi dei minori uccisi a Gaza dal 7 ottobre del 2023 fino a luglio 2025. L'appuntamento è alle 17.30 al Parco della Rimembranza al Colle di San Giusto. I partecipanti sono invitati a portare torce elettriche con cui illuminare anche al buio i nomi scritti. A Pordenone questa mattina la cerimonia di consegna dei diplomi all'ITS Alto Adriatico a circa 200 studenti in servizio. Chi si è diplomato ha già trovato lavoro. L'Istituto Tecnico Superiore Alto Adriatico di Pordenone, con un percorso biennale post-diploma, ha assicurato negli anni l'ingresso nel mondo del lavoro, con un tasso di occupazione del 97% nelle aree dello sviluppo dei software, nella cyber security, nell'efficientamento energetico e nell'agroalimentare. Un percorso formativo di circa 2.000 ore, di cui 1.200 tra aule e laboratori e 800 ore dedicate a stage in aziende. Un'eccellenza nel panorama nazionale dell'ITS che ha voluto celebrare con la consegna dei diplomi agli studenti che hanno completato il loro percorso tra il 2020 e il 2023. Ho trovato lavoro immediatamente, in realtà l'ITS mi ha proprio consigliato un'azienda e è stato molto utile, moltissime delle competenze che abbiamo imparato qui, che abbiamo appreso, le utilizzo quotidianamente. Grazie allo stage intrapreso negli anni sono riuscita a trovare subito lavoro e svolgo attualmente l'impiego come product manager nell'azienda in cui ho fatto lo stage. E c'è anche chi è diventato docente dell'ITS Alto Adriatico dopo aver studiato nell'istituto stesso. Xavier Perin, docente di Cyber Security. Io mi sono diplomato in DevOps e Cyber Security nel 2022. Da lì ho cominciato a lavorare, dapprima sono andato a Milano per poi tornare nella mia città natale, Pordenone. Poi ho deciso di diventare insegnante ITS Alto Adriatico. Una formazione molto mirata che ha puntato su specializzazione tecnica e inserimento rapido nel mondo del lavoro. Claudia Trotta, direttrice didattica ITS Alto Adriatico. Docenti che provengono dal mondo del lavoro e una forte interazione con le aziende del territorio. Questi sono i due elementi fondamentali che ci permettono di raggiungere risultati importanti. I diplomati dell'ITS faranno parte anche di Confindustria Alto Adriatico con una propria associazione. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. Sarà un vero club di un ecosistema molto grande che gli aiuterà a entrare in contatto costante col sistema delle imprese e della sua rappresentanza. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E alle 12.41 diamo uno sguardo al tempo, con cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 12 gradi, 10 a Pordenone e 9,5 a Udine e a Gorizia. Fuori di sopra 7,5 gradi, Piancavallo 6,5, Alto Mezzo 4,5 gradi, Treviso 0,5 gradi sotto zero e a Sappada -2 gradi, in montagna sullo Zoncolane 4,5 gradi e su Lussari 3 gradi, mentre sulla costa a Grado si sono registrati 8,5 gradi e 7,5 a Lignano. E ora le previsioni per questo fine settimana e i primi giorni della prossima le ascoltiamo direttamente dalla voce di Giuseppe Visalli dell'ARPA. Nella giornata odierna una depressione mediterranea si sposterà verso la penisola balcanica e determinerà ancora l'afflusso di correnti fredde ma secche nordorientali. Mentre nella giornata di domenica si avrà un rinforzo dell'anticiclone che determinerà tempo stabile ma l'afflusso in realtà di correnti più umide sud-occidentali soprattutto alle basse quote. Quindi nel dettaglio possiamo vedere la previsione per la giornata di sabato che vedrà ancora cielo in prevenza poco nuvoloso a causa del passaggio di nubi alle medio-alte quote e nel corso della notte del primo mattino soffierà bora moderata a Trieste poi in attenuazione e cessazione del tutto entro il pomeriggio e le temperature minime scenderanno sotto zero ancora in pianura intorno ai 12 gradi invece le massime. Per quanto riguarda la giornata di domenica avremo cielo in prevalenza variabile o nuvoloso soprattutto poi verso sera perché si avrà un progressivo aumento delle nubi medio-alte a partire da ovest. Temperature minime ancora di poco sotto lo zero in pianura, temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione. Poi nella giornata di lunedì e martedì, quindi all'inizio della prossima settimana, si avrà un avvicinamento di una saccatura atlantica che però sfilerà molto velocemente verso est con un nuovo rinforzo poi dell'anticiclone, anche se in quota le condizioni rimarranno stabili, mentre nei bassi strati continueranno ad affluire correnti umide sud-occidentali. Quindi nel dettaglio lunedì ci attendiamo cielo coperto su tutta la regione con possibili piogge deboli soprattutto verso est. Temperature minime in aumento. Martedì cielo da nuvoloso a coperto con ancora possibilità di qualche piovigine o piogge debole soprattutto verso est anche se la possibilità di pioggia appunto sarà minore rispetto alla giornata di lunedì. Temperature minime ancora in aumento con valori intorno ai 6 gradi sulla pianura, 10-11 gradi invece sulla costa, temperature massime ancora stazionarie. Ivan Buzzi, sindaco di Pontebba, è stato confermato alla guida della delegazione regionale dell'UNCEM, l'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani, l'organizzazione nazionale unitaria che da oltre 70 anni raggruppa e rappresenta i comuni interamente e parzialmente montani, le comunità montane e le unioni di comuni montani. La rielezione è avvenuta a Venzone nel corso dell'assemblea congressuale alla quale ha partecipato il presidente nazionale Marco Bussone. Buzzi rappresenterà il Friuli Venezia Giulia insieme ai delegati regionali al congresso nazionale dell'Aquila il 12 e 13 dicembre. Al centro della relazione di Buzzi l'impegno di UNCEM per la certificazione boschiva a supporto dei comuni e la sfida della nuova legge montagna approvata dal governo. Tra i temi nodali anche la collaborazione con ANCI nelle politiche per la formazione del personale, le difficoltà del reclutamento dei dipendenti e la carenza dei segretari comunali. Il Teatro Verdi di Trieste apre la stagione con le due opere legate al personaggio di Figaro scritto da Rossini e da Mozart. A firmare la regia dei due spettacoli un protagonista del nostro teatro musicale non solo come Pierluigi Pizzi, ieri la serata inaugurale. Largo fatto della città largo. Ieri il Barbiere di Siviglia di Rossini, stasera le Nozze di Figaro di Mozart. È una doppia inaugurazione quella del Verdi di Trieste, che mette in scena in parallelo le due opere basate sul personaggio inventato da Beaumarchais, con l'allestimento affidato ad un maestro della regia e della scenografia come Pierluigi Pizzi, che sceglie un'ambientazione tutta bianca, suo tratto stilistico favorito, con i costumi che sono per la maggior parte sulle sfumature del bianco, del nero e del grigio, con qualche macchia di colore definito ed acceso negli abiti di alcuni personaggi. Interni ed esterni altoborghesi di inizio Ottocento per la vicenda del conte di Almaviva, grande di Spagna, interpretato da Marco Cioponi, che con l'aiuto di Figaro riuscirà a sposare Rosina, che ieri sera era Annalisa Stroppa. Nel corso delle oltre tre ore di musica della serata, la recita ha preso progressivamente quota e se all'inizio il pubblico ha reagito con qualche freddezza, alla fine è stato un autentico trionfo per Pizzi, per Enrico Calesto che dirigeva i complessi del Verdi e per tutti i cantanti, con una menzione speciale, ancor più che per Alessandro Luongo nel ruolo del protagonista, per Marco Filippo Romano, davvero bravo nel canto sillabato imposto dalla parte di Bartolo. Una serata di festa anche per il sovrintendente Giuliano Polo, appena confermato nella carica dopo mesi di incertezza, e per il sindaco di Piazza che, come presidente della fondazione, ha fortemente voluto questa conferma, nell'attesa dell'arrivo proprio oggi del nuovo direttore artistico, nominato giusto l'altro ieri nella persona di Valerio Vicari. Trieste, Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora musica a Sacile per il Volo del Jazz, in programma questa sera uno dei concerti clou della stagione. Alle 21 al Teatro Zancanaro l'appuntamento imperdibile con il Mare Nostrum Trio con le superstar Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren. Dopo centinaia di concerti e tre album acclamati, la formazione ha da poco sfornato Mare Nostrum Quarto, 12 brani originali e arrangiamenti che spaziano da Piazzolla a Monteverdi, da Charles Trenet a Quincy Jones. E siamo alla pagina dello sport, in primo piano il calcio in Serie A, uno dei primi anticipi del tredicesimo turno, la sfida del Tardini tra Parma e Udinese in campo alle 15, in contemporanea si giocherà Genoa-Verona, proprio con il Verona il Parma ha vinto all'ultima giornata, mentre l'Udinese arriva dalla pesante sconfitta interna con il Bologna. A un terzo del cammino stagionale i bianconeri stentano ancora a trovare un'identità definita, la costante è la fragilità difensiva e solo il Torino finora ha fatto peggio quanto gol incassati. A Parma servirà la migliore Udinese per rispondere alle urgenze di classifica degli emiliani che si trovano appena al di sopra della zona retrocessione con 4 punti di ritardo rispetto alla squadra di Rugnaic. In Serie C ha ritrovato il successo la Triestina che allo stadio Rocco ha superato in rimonta la Pro Patria. Dopo un primo tempo senza gol ma con gli alabardati spesso pericolosi in avanti, vantaggio ospite all'inizio della ripresa. La squadra di Tesser prima pareggia con Vertainen e ha una manciata lanciata diminuti dal termine, in superiorità numerica per un'espulsione nelle file dei bustocchi, trova la rete della vittoria, la prima con Tesser in panchina, grazie a un'incornata di Fagioli, la cui presenza alla vigilia era in dubbio. È stata l'ennesima prova di carattere della Triestina in un incontro che, se fosse finito diversamente, avrebbe potuto rappresentare la fine, forse, delle speranze di risalita in zona play-out. I punti di distanza dalle squadre più vicine, la stessa Pro Patria e la Virtus Verona, 17 lunghezze più su, restano tantissimi, ma la fiammella rimane accesa. Nel prossimo turno, Giana Erminio Triestina, l'8 dicembre. La Giana è decima con 19 punti e domani giocherà a Belluno. Il biathlon, dopo 21 mesi di assenza, torna sul palcoscenico della Coppa del Mondo, la protagonista più attesa della stagione, la sappadina Lisa Vittozzi. La due volte campionessa iridata e vincitrice della Coppa del Mondo generale del 2024 rientra nella staffetta femminile di Östersund in Svezia, nella quale gareggerà insieme alle compagne Wierer, Carrara e Auchenthaler. La gara comincerà tra meno di un'ora alle 13:45. Vittozzi ha saltato un intero anno di gare ed è reduce da un'estate nella quale si è preparata da sola con il suo team. Buoni i primi test nelle ultime settimane. Non sono al massimo, avverte Elisa, ma piano piano ci arriverò. Altri appuntamenti sportivi di oggi: nel massimo campionato maschile di pallanuoto, Trieste gioca a Roma contro la Visnova all'inizio alle 16 e alla Piscina Bianchi. Invece appuntamento con la Eurocup femminile, Trieste alle 18:30 ospita il Keruleti Budapest. Mano Serie A Gold, Trieste in casa gioca alle 19 al Palacchiarbola contro l'Alperia Merano. Nella pallacanestro fermi i campionati maschili per gli impegni della nazionale, questa sera in A2 femminile la partita del Futurosa Trieste sul campo del Matelica. Il palaghiaccio di Clauto ospita fino a domani una tappa del campionato italiano di wheelchair curling. In gara quattro squadre provenienti dal nord Italia. Oltre ai padroni di casa delle Clauto partecipano il Disval della Valle d'Aosta, Albastro Stone e Albastro Strento del Trentino. Le formazioni si affrontano in un girone di andata e ritorno. L'ultima partita si disputerà domani alle 13. I risultati stabiliranno la classifica utile per la successiva fase finale che si terrà in Val di Cembra. Questa mattina il Clauto ha giocato con l'Albatro Strento, perdendo per 4-1. Nel pomeriggio alle 17 sarà impegnato con il Disval. Non perdete domani l'appuntamento con le nostre rubriche. Partiamo da quella diffusione nazionale, Est-Ovest, in onda sia alla radio sia in televisione. Una volta a succhiare sangue ai romeni era Dracula, ora la parte del vampiro è stata presa dall'inflazione e dal caro vita. La tana del lupo, il bunker in Polonia dove Hitler si nascondeva durante la Seconda Guerra Mondiale, ora trasformato in museo. La Macedonia di Alessandro Magno è motivo di un perenne contenzioso diplomatico tra la Grecia e la Macedonia del Nord. Le politiche applicate in Albania per la ricostruzione del paese dopo il terribile terremoto del novembre del 2019. La vitalità del lituano, una lingua marginalizzata per secoli che cerca nuovi vocaboli anche per le parolacce. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E domattina, subito dopo la prima edizione del giornale radio regionale, andrà in onda Vita nei campi e con gli aggiornamenti in scaletta. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani racconta i primi passi di Rete Mela Bio Friuli Venezia Giulia, produttori uniti per valorizzare i loro frutti in grande distribuzione e ristorazione collettiva. A seguire odori, immagini e memorie del rito della macellazione del maiale, legno, metallo o PVC quale materiale per la struttura di protezione dell'orto o giardino di casa. Dalla Pale Ale alla IPA nel Settecento, il viaggio della birra dall'Inghilterra all'India e ancora il pestatra patonda di Milano dal colletto viola conservata grazie alla fermentazione dentro una serra professionale. Come funzionano davvero queste macchine delicate, complesse, affascinanti. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Giulia. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello ed Eugenio Giuffrida, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Sono le 12:54:30, prossima edizione oggi che è sabato alle 14:30. A tutti voi grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.